C'è da stupirsi che sulla base del sentimento amoroso si sia talvolta poggiata la danza. Il ballo è esso un'occasione e una manifestazione d'amore. Chi dei nostri emigrati non ricorda la sagra del proprio paese con gli immancabili quattro salti sul Brear? Appunto una danza è l'antica villotta La Quarte Siarade, che un tempo si ballava a suon di tintine, un piccolo strumento a forma di lira e con una linguetta d'acciaio nel mezzo. Una danza è una villotta insigne, La Quarte Siarade, se un musicista come Beethoven ne ha inserito il motivo nella sua sonata numero 81. Ma ascoltate ora questo canto singolarissimo, fra narrato e dialogato, tutto tenuto su un doppio registro di scanzonatura e di allusione. La quarte si arade, gli sclase son su, al passe che il zovin, al vierz e al vasù. La mar in cusine, c'è fastu lassù, le ghiazzu pestiali scalcor su e giù, al diave di scartis, guai fasi sinti, la chiappe, la busse, la metta a dormire. Poccagni di fie, c'è fastu lassù, gli scoltri scolari scumoli schiol su. La quarte schiarade, gli scasse son su, o il passe che il giovi, agliaccia il lassù. La mare in cusine, c'è pasto lassù, le ghiaccio pesciali, al cor su e giù. La mare in cusine, c'è pasto lassù, le ghiaccio pesciali, al cor su e giù. Ugualmente scanzonata, ma con in più anche inconfessatamente una certa apprensione, una punta di allarme, è una villotta la cui conservazione si deve a Luigi Britz, che l'ha raccolta a buia dalla bocca del popolo. O Durmiso oppur Vegleiso. Notevole questo canto per la complessità dei sentimenti che dice e non dice, che rivela e nasconde. C'è il sospetto dell'uomo per l'astuzia e la finzione delle donne, il suo timore d'essere vittima delle loro congiure, e nel tempo stesso l'avvertimento che gli ha scoperto il loro gioco e dunque sta in guardia. O Durmiso pur Vegleiso, c'è mai faiso su che liete, o pensaiso e sbaronadis che o le sfami a mi puaret. Decisamente satirica è la villotta E Tunin. Il canto ce lo presenta subito questo Tonino, un bel giovane che se proprio non ha altri meriti sa però portar bene il cappello. E Teresina dovrebbe rendersi conto che una siffatta forma d'eleganza non è da tutti, se lo sposi dunque. Una villotta questa che piacque anche alla maggior scrittrice friulana, Caterina Percoto, che la raccolse nel volume dei suoi racconti. Nel frizzo della quartina è chiuso tutto un giudizio, sorridente ma caustico. E tunin a Leon Bielzovin, calza ben quartal chiapiel, al si merte teresine, sed non fos dome parchel. Trepida invece, tutta lieta d'una gioia ammiccante e con che di innocentemente allusivo in apertura, è la villotta Iosso e Stade a Confessani. Qui il sentimento dell'amore si fa sogno e desiderio d'un futuro colmo di impegno, il matrimonio, che dell'amore è il naturale coronamento. Osso e Stade a Confessani dal mio solito confessor. Lui mi ha detto che mi maridi, ioi c'è predi dal Signor. Benedete che contrade la calpasse il signor Clevan, benedete che giornade calmi met la vera in man. Villotte d'amore, cadenze del cuore della nostra gente sul tema del più vero, più profondo, più religioso sentimento dell'uomo. Siamo certi che in questi canti del vostro Friuli, cari fratelli in ascolto, avete trovato tutti un ricordo, un nome, un volto di donna. Sposa o fidanzata, essa è stata più che mai vicina a voi, dentro di voi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 50ª trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Dino Menichini e Ermete Pelizzari. Poesie e canti popolari. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro di San Lorenzo di Sedigliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio.